Allora, io ho svolto varie professioni nella mia vita. Una di queste professioni è stata la guardia giurata. Lo sono stato per un breve periodo. Avevo come insegnante dei corsi teorici, perché era una guardia particolare giurata che ha lavorato per un brevissimo periodo in un certo ambito, poi ho dato le dimissioni. Ho avuto la fortuna di avere un grandissimo insegnante che era un colonnello dei carabinieri in pensione, che apparteneva alla vecchia guardia dell'arma dei carabinieri, laureato in giurisprudenza, e ometto il suo nome per privacy. Comunque era un grandissimo personaggio. Io ricordo che tra le tante cose ci disse: noi viviamo in uno stato di diritto, voi vivete in uno stato di diritto. Siccome viviamo in uno stato di diritto, quando una persona pensa che un suo interesse legittimo, un suo diritto venga calpestato, deve difendersi. E quindi difendetevi. Medici, infermieri, difendetevi, difendetevi. Abbiate il coraggio, tirate fuori la vostra dignità. Ai maschi mi rivolgo. Avete due sacche che sono contenute all'interno di avete una sacca che contiene, no, quello che si chiamano testicoli, avete una produzione di testosterone. Dimostrate che il testosterone non lo avete solo quando la Juventus lotta per la Champions League oppure qualche atleta, no, vi eccita dal punto di vista adrenalinico. Tirate fuori gli attributi, uomini, prendete esempio dalle donne. Perché le donne in questo frangente, in questa deriva autoritaria che da alcuni anni sta travolgendo l'Italia, le donne, soprattutto le madri, ma non solo le madri, le nonne, ma anche chi madre non è, hanno dimostrato di avere più sprint degli uomini. Tirate fuori gli attributi, senza rabbia, senza offese, senza gesti plateali che sconfinano e fanno passare dalla parte del torto. Fate valere i vostri diritti, ribellatevi a questa dittatura sanitaria che è in palese conflitto di interesse. Ribellatevi, perché lo stato di salute è quello che è stato definito dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, alla fine degli anni 40. Un completo stato di benessere psicofisico, quindi sono incluse le relazioni sociali e non è la banale assenza di malattia o di contagio. Ribellatevi a questa dittatura sanitaria secondo lo Stato di diritto. Usate tutti gli strumenti e tutte le argomentazioni giuridiche che tutelano i vostri diritti soggettivi e i vostri interessi legittimi. Fatelo perché nessuno potrà salvarci da quello che sta per accadere. Solo noi possiamo salvare noi stessi. No, non ci sono bacchette magiche, non ci sono fate turchine, non c'è un Deus ex machina che scende dal cielo e ci salverà. Possiamo essere ispirati, possiamo trovare conforto nella fede, possiamo incontrare qualcuno che ci illumina, ma soltanto noi siamo responsabili di noi stessi e delle nostre vite e del nostro destino. Ciao a tutti da Luca Scantamurro.